Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il Papa ha stabilito che entro un mese, quindi in maniera velocissima, si arrivi a una sentenza. Chi darà questa sentenza? Il Vescovo diocesano. Non ci sarà più una centralizzazione a Roma, non nei tribunali diocesani, ma ogni vescovo potrà stabilire, potrebbe stabilirlo anche da solo, ma Francesco ha chiesto che ci sia di norma una commissione di tre persone, possibilmente tre sacerdoti, o almeno che uno sia sacerdote. Non ci sarà, proprio per velocizzare, un secondo grado come era fino adesso. Le norme risalgono a tre secoli fa, lo hai ricordato, Benedetto XIV, il Papa che stabilì quelle norme, adesso riformate. Un secondo grado di appello è stato tolto. La sentenza diventerà immediatamente esecutiva, ma se una delle due parti facesse appello ci potrà essere un nuovo approfondimento, ma solo se verrà dimostrato che non è un intento delatorio, cioè se ci sono nuove prove, altrimenti verrà rigettato. Sarà gratuito almeno... Beh, mi sembra che la rivoluzione sia epocale, poi entreremo nello specifico delle norme, ma la sintesi è questa: Papa Francesco ha stabilito motu proprio, senza nemmeno sentire il parere dei vescovi, che il matrimonio, quando non funziona, tanto vale chiuderlo. Lo fa naturalmente nelle forme dovute, nelle maniere dovute, ma la rivoluzione è grossissima. Sono tre secoli che nessuno mette mano, diciamo, alla normativa che permetteva a un tribunale della Sacra Rota, con avvocati che parlavano soltanto latino, decidere perché un matrimonio dovesse essere sciolto, anche laddove si scrive con lettere di fuoco nella porta dei cieli che due persone rimangano insieme per tutta la vita. Beh, è una cosa nuova anche perché lo Stato laico in questo momento si sta dibattendo nel compromesso, nell'equilibrio, nella necessità di fare contenti tutti, nel definire che definitivamente una persona, quando due persone quando decidono o capiscono che il matrimonio non vale più, tanto vale chiuderlo. Beh, invece il Papa accelera, va avanti. Questa mattina mi piace vedere quali sono le reazioni. Ora, trovo scontato e va da sé che Renato Farina scriva nel suo editoriale sul Giornale: l'idea è che persino il legame sacramentale sia un laccetto che si sbroglia come la stringa delle scarpe. I cattolici, molti cattolici, dicono: come, ci manca una sicurezza improvvisamente, non c'è questa sorta di legame indissolubile che soltanto degli avvocati, attraverso dei cavilli, degli escamotage, delle sentenze complicatissime, riescono a sciogliere. Basta andare dal vescovo e dire: guarda, noi non stiamo più insieme. Il vescovo dice: va bene, me ne rendo conto, fine, per Dio il matrimonio è finito, risposatevi tranquilli e contenti. La sto semplificando naturalmente, ma mi sorprende vedere un giornale che dovrebbe essere il faro della laicità, che è Repubblica, che racchiude giustamente nel loro diritto però la testimonianza di un signore di 42 anni che ci ha messo 13 anni per annullare il suo matrimonio. La ragione era, però la moglie non ha voluto che si dicesse, che una moglie era caduta in un illicitus coitus cum uxore vel maritus alterus, insomma era andata con un altro. Ci ha messo 13 anni, dice, ma come? Io ci ho messo 13 anni, adesso si fa in 448. E infatti il titolo è: io risposato dico che così si svilisce il sacramento. 800240024, che ne pensate della riforma del Papa? Trovate che sia giusta? Trovate che sia avventata? Vi fa mancare alcuni dei puntelli essenziali della vostra fede, della vostra sicurezza? Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. Storica e giornalista, collabora con i quotidiani Avvenire, Il Foglio, Corriere della Sera e Osservatore Romano. Il suo punto di vista è tra i cattolici perplessi che dicono che forse è stata un'accelerata troppo improvvisa, o trova che il Papa sia perfettamente adeguato con le esigenze del tempo? Chi ha fede sa che il matrimonio è indissolubile e non si porrà mai il problema. Chi ha fede ma però è umano e quindi è sottoposto, ahimè, alle intemperie della nostra natura, sa che quando il matrimonio finisce è ben contento, così può fare la comunione, prendere i sacramenti, sente in pace anche con il Padre Eterno. Forse sarebbe più, io sono naturalmente molto favorevole col motto proprio, però penso anche una cosa che forse andrebbe spiegato, che il matrimonio che si scioglie non è quello di due persone che hanno smesso di volersi bene, che si lasciano, è un matrimonio che era già nato, diciamo così, sbagliato, nel senso che erano due persone che si erano sposate in chiesa senza la vera intenzione di contrarre un matrimonio religioso, senza la consapevolezza del sacramento che stavano assumendo. Quindi era un matrimonio fatto per formalismi, per motivi esterni al matrimonio stesso. Quindi in questo caso si ristabilisce quello che è una delle basi della tradizione cristiana, che è l'intenzione, il valore della vera intenzione. Cioè, se uno si sposa in chiesa ma senza avere l'intenzione vera di contrarre un sacramento, di fare una scelta così per tutta la vita, una scelta religiosa, è giusto che non venga poi incatenato. Perché lei, Scarfia, lei dice, se c'è l'intenzione vera, qualunque sia l'intemperie umana che si attraversa, sì, deve rimanere fermo. Sì. Ma la fede non può vacillare, sì, lungo il percorso. Uno parte con la buona intenzione e poi lungo la strada dice, ahimè, sono caduto. Beh, però è caduto, però in quel caso il matrimonio rimane valido. Cioè le possibilità di soluzione non sono così infinite. Allora il vero cristiano non dovrebbe mai andare dal vescovo. Mantenersi in una situazione di osservanza comunque del fatto che è sempre sposato e non ricorre a questo sistema, se no sembra una furbata, un escamotage. No, forse i veri cristiani sono sempre meno, intanto molte persone poi magari nel corso della vita ritornano a essere veri cristiani, ma magari quando erano giovani, si erano sposati, l'avevano fatto alla leggera senza rendersi conto di cos'era il sacramento. Quindi non è che tutti sono veri cristiani dal primo all'ultimo giorno, ci sono delle fasi diverse della vita delle persone. Questo sarebbe allora, da questo punto di vista, l'idea: se vi sposate in chiesa, fatelo con cognizione di causa, non fatelo per far contenti parenti. Sì, questo vuol dire quello soprattutto, che dovete stare molto attenti, farlo veramente sul serio. Del resto adesso i corsi prematrimoniali portano gli sposi ad una scelta veramente consapevole. Oggi per esempio non si può sposare nessuno in chiesa senza aver fatto un corso prematrimoniale che in qualche modo lo avverte di quello che sta facendo, lo rende consapevole e saggia un po' la sua vera intenzione. Ma non c'è il pericolo che invece sia presa facilmente dall'altro punto di vista? Anche il Papa è d'accordo che il matrimonio può finire, quindi sì, sposiamoci in chiesa, facciamo le cerimonie coi cavalli, coi parenti, con gli strasci, con i valletti, tanto poi possiamo andare dal vescovo se cambiamo idea. No, questo è un equivoco che non ha fondamento. Va fugato senz'altro. Assolutamente, è un equivoco che non ha fondamento. Il Papa ristabilisce il primato dell'intenzione e della sostanzialità, cioè un sacramento c'è quando c'è la vera intenzione degli sposi, che sono i ministri del sacramento, tra l'altro. Quindi se gli sposi non avevano intenzione, non c'è sacramento. Quindi mi sembra chiaro poi, tanto la fede è un fatto anche di coscienza individuale, ognuno può prendersi in giro quanto vuole e giocare con la propria coscienza. Mi sembra molto chiaro, ringrazio Lucetta Scarfia che mi ha dato innanzitutto il punto del perfetto credente, che è questo, non si esce, poi potete prenderla come volete. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io credo veramente che sia un equivoco, cioè la Sacra Rota non è che sciolga un matrimonio, semplicemente la Sacra Rota dichiara che il matrimonio, che quel matrimonio non è mai esistito, cioè le condizioni dell'annullamento sono sempre le stesse, è cambiata la forma con cui giustamente la Chiesa affronta questo tipo di problema, capito? Io penso così, comunque è un po' una questione di lana caprina. Sì, adesso non possiamo, far finta che la Sacra Rota non abbia giocato con le sentenze, non sia a volte spesso un grande apparato in cui gente con figli, basta che dica che magari nel momento della unione non era perfettamente consapevole del suo ruolo o di maschio o di femmina, viene sciolto. Diciamo che le maglie sono un po' larghe. Io trovo molto giusto quello che ha detto Lucetta Scarfia: con la fede non si scherza, poi ognuno può prendersi in giro quanto vuole, ma dire che le sentenze della Sacra Rota fossero qualcosa di così cristallino, molte volte erano veramente totalmente ridicole, questo lo sappiamo tutti, o sbaglio? No. Sì, io penso che comunque la Sacra Rota non è cambiata nella sostanza, cioè è semplicemente cambiata la forma con cui viene annullato un matrimonio. Beh, oddio, perde notevolmente la sua centralità, la Sacra Rota. Se decide il vescovo, uno nemmeno ci va alla Sacra Rota. Decide il vescovo, non perde nemmeno tempo a cercare l'avvocato rotale, che sono anche abbastanza cari. Comunque mi sembra il suo punto di vista. Marco ha parlato. Paolo velocemente. Sì. Sì, buongiorno. Guardi, io volevo soltanto ribadire quello che stanno dicendo tutti, probabilmente danno tutti, cioè che non c'è nessun cambio epocale, nessuna catastrofe in questo senso, semplicemente si abbreviano drasticamente e fortunatamente i tempi in cui si dice alla coppia: guardate, probabilmente questo matrimonio che avete fatto non è valido e basta, finito. Quindi, per lei non cambia nulla, non è una rivoluzione questa che fa il Papa? No, nel senso importante importante del termine, no, cioè il matrimonio, c'è matrimonio quando i due sono consapevoli e quando si affrontano i problemi e quando ci sono le condizioni. Sì, ma la consapevolezza non è un marchio a fuoco. Io posso essere stato consapevole 10 anni fa e oggi ci ho ripensato, questo è il fatto. No, no, ma il ripensamento di per sé non è, cioè il fatto non è cristiano, ho capito. No, il fatto che il matrimonio sia valido o meno non è nemmeno neanche tanto una questione di ripensamento, di volerlo, è una questione anche di fatti, di cose che ti accadono. Cioè, se una coppia sono figli, il vecchio metodo di approfondimento prevede una serie lunga di accertamenti che non è soggetto soltanto alla volontà, all'emozione, al fatto che ci abbiamo ripensato. No, bisogna vedere che cosa è successo in questa coppia durante gli anni. Sì, ma tanto è sempre la coppia che decide quello che dice, non è che c'è il raggio laser che gli entra nella testa e tira fuori la verità. Possono esatto. dire quello che vogliono. Quindi. Però in questo senso, cioè, capiresti se aprisse il cielo, scendesse il Padre Eterno e dice qual è la sentenza. Ma essendo noi tutti umani, diciamo quello che vogliamo. Certo, però in questo senso il fatto di averlo abbreviato è positivo, perché anche noi o chi di noi si professa cristiano eccetera, così abbiamo avvertito negli anni un dilungamento eccessivo per constatare se ci sono le condizioni. Quel signore su Repubblica ha 13 anni per pensare il fatto che il matrimonio non fosse valido perché la moglie era andata con un altro, che poi non è nemmeno un motivo che invalida, secondo me uno può avere una caduta, poi l'esperienza umana a dire vabbè, facciamo finta che può accadere. Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. Ritorniamo sul piano prettamente giuridico. Ricordo presidente AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, autore del libro I Perplessi Sposi, che presto sarà doppiato da una seconda edizione di un nuovo libro di Gassani sul matrimonio, che non posso però anticipare, anche se ne so molto. Gianettore, giravoce che gli avvocati rotali questa mattina siano abbastanza arrabbiati. Ti risulta? Non ho idea, insomma. Secondo te, se tu fossi un avvocato rotale questa mattina, come ti sentiresti? Ma, per assurdo. Domanda imbarazzante. Però ci penserei un attimo, perché indubbiamente. Cosa cambierebbe nella tua vita professionale questa idea del Papa? Ma facciamo un gioco dell'assurdo. Tu, avvocato rotale, questa mattina dice il Papa ha fatto questo. Ma innanzitutto parto dal presupposto che, avendo parlato con molti colleghi che si occupano di diritto canonico, vorrei sfatare un po' il mito di parcelle enormi, perché non è così. So che, no, tanto tempo, non l'abbiamo ridimensionato. Il tempo. Io credo che fondamentalmente. Perché sono pochi gli avvocati rotali. L'avvocato che si occupa di diritto canonico in questo momento viene un po' ridimensionato. Ma è successo anche nel nostro sistema, con la negoziazione assistita. Anche oggi in Italia una separazione, un divorzio tra persone che non hanno figli o figli da mantenere o trasferimenti immobiliari, con 16 euro vai al comune e risolvi il tuo problema. Diciamo che quello che abbiamo sempre detto, se c'è accordo fra i coniugi che il matrimonio è finito, non ci sono problemi. Quando viene fuori il contenzioso si aprono tutti i problemi. Certo, anche se qui stiamo parlando di altro, perché qua in effetti si parla di dichiarazione di nullità, cioè quasi a dire il matrimonio non è mai esistito. Mentre il nostro sistema, noi uccidiamo un matrimonio vero, un matrimonio vivo, la Chiesa fa un discorso diverso. Non è mai esistito. È il suo ambito, è giusto che lei manovri in quel suo ambito. Infatti io credo che il Papa sia stato grande ancora una volta. Il Papa ha dato un segnale formidabile di modernità anche al nostro mondo laico, perché pensare di ridurre ad un solo giudizio, un solo grado di giudizio il processo, significa dare anche un esempio a noi altri che abbiamo 3 gradi di giudizio anche per uno sfratto. Probabilmente anche noi dovremmo pensare ad un grado di giudizio, il secondo grado solo in casi di eccezionale importanza e gravità. Il problema delle spese, è giusto che la gente non sia vessata dai costi su questioni che riguardano la propria fede. I tempi, siamo perfettamente d'accordo. Sul piano delle ragioni che determinano poi la dichiarazione di nullità, mi pare che non sia cambiato niente. Per cui credo che il mondo cattolico, prima di contestare il Papa, ci dovrebbe pensare tante volte, perché il Papa ha avuto un coraggio dopo 3 secoli di cambiare un processo pesante, lungo, macchinoso, e penso che il Papa ancora una volta ha avuto ragione. Ma vedi, la fede e il bacchettonismo di facciata, a volte anche molto comodo per mantenere posizioni di privilegio, sono cose ben differenti. Infatti 2 ascoltatori, persone di fede sincera, che hanno chiamato, hanno detto: per noi non cambia nulla. Ma no. Chi deve dimostrare comunque che lui è una persona perfettamente in linea con i principi e via dicendo, si straccia le vesti. Cosa succederà? Il matrimonio è sciolto. Ma io penso che per una persona di fede che si sposa in chiesa non esista il problema se è di fede. Poi la fede vacilla, cambia, uno si converte, uno diventa ateo, apostata, qualunque cosa può accadere. Diamo nella fattispecie proprio tecnica, sì. Cosa cambia? Tu avrai avuto infinità di casi di persone che hanno avuto anche il problema del matrimonio religioso assieme a quello civile. Per molte persone è importante, fondamentale. Quanto incideva, diciamo, l'aspetto del matrimonio religioso, ecclesiastico sul matrimonio civile nelle sentenze e nei processi? Allora, questa partita si gioca nel mondo dei cattolici che ha tante sfumature, però poi alla fine della fiera cerchiamo di capire che cosa può significare una sentenza di questo tipo. Per noi italiani significa molto poco, per noi laici, dal punto di vista degli effetti civili. Mi spiego. Una sentenza canonica, se non viene riconosciuta dall'Italia, dallo Stato, attraverso la procedura della delibazione davanti alle corti d'appello... Ma accadeva questo? Sì, sì, come no. Non ha alcun valore. È un fatto religioso, un fatto di fede. Perché noi io trovo che sia giusto che sia così. Assolutamente, noi controlliamo, noi italiani siamo obbligati a controllare le sentenze di questo tipo, perché è giusto verificare caso per caso se nel nostro paese è ammissibile una cosa di questo tipo. Mi spiego. Ormai la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che i matrimoni lunga durata, bene, non, quando vengono dichiarati nulli, dalla ma cosa canonica, non funziona? No, non vengono proprio riconosciute queste sentenze, perché chiaramente... È una presa in giro. Non so se è una presa in giro, ma quando un matrimonio ha durato 20 anni, 15 anni, sali 3 figli, per l'Italia questa cosa non interessa niente, anche perché una sentenza delibata di questo tipo produce degli effetti importantissimi, come accade? La perdita dell'assegno di mantenimento, la perdita del trattamento di fine rapporto, la quota del trattamento di fine rapporto. Quindi non è proprio una cosa astratta, diciamo, c'è poco la sentenza. Quando si arriva in corte d'appello c'è poco di religioso, è tutta una questione di soldi. È una maniera per evitare dare soldi ed al è giusto che i nostri giudici abbiano avuto il coraggio di dire no a tantissime sentenze di questo tipo e dire no, in Italia noi non le riconosciamo, un problema di fede, è andata in pace, ma noi non determiniamo effetti civili a queste sentenze. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Allora, anzitutto io volevo chiedere se c'è una qualche statistica da cui risulta coppie ricorrono all'annullamento ecclesiastico indipendentemente da un nuovo matrimonio, perché le poche cose, occasioni che mi sono capitate sono sempre state motivate da un nuovo matrimonio. Fino a quel momento andava bene così, separati, divorziati. Cioè il nuovo marito, la nuova moglie, dice io mi voglio sposare in chiesa, perché no? Io, e allora uno deve sciogliere anche il matrimonio, cioè deve dichiarare non valido il matrimonio religioso, se no uno tranquillamente dice chi se ne importa, per me è finito, poi farò i conti magari in un'altra vita. Però sono due cose diverse, cioè un conto alla sostanza e un conto alla forma, ecco così, cioè diciamo così. Seconda cosa, io sono separata, divorziata, credente, cattolica, non eccessivamente praticante, ma mai e poi mai avrei fatto ricorso all'annullamento, perché sarebbe stato per me il rifiuto di me stessa nel mio passato, e io sono adesso ciò che sono stata nel mio passato. No, lei ha ragione, lei ha detto una cosa che non ha detto nessuno, anche le persone di fede. In realtà, perché dire che non è esistito il matrimonio? Secondo una persona ci ho diviso una fetta della vita, fossero 3 anni, 10 anni o 20 anni, perché a un certo punto qualcuno dice non è mai esistito, cancellalo. Io, il signore intervistato alla Repubblica, dice ma io non ho avuto una prima moglie, non è mai esistita quella cosa, è solamente perché ti ha messo le corna, è andata con un altro. Non è vero, hai avuto una vita assieme, hai diviso un qualcosa con quella persona, fa parte della tua vita. Mi sembra atroce l'annullamento del fatto che sia esistita quella persona. Fermiamoci un istante, a tra poco con l'avvocato Gassani. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Nuova Smart 4 con il nuovo cambio automatico super veloce. Proprio mai. E allora davvero non cambi mai. Nessuno più ti può fermare. Tua anche con un anno di RC Auto e assicurazione furto incendio completamente gratuiti. Solo con finanziamento Mercedes-Benz Financial. Vieni a provarla. Infosmart.com. Smart. Sei un'azienda e vuoi sbaragliare le aziende concorrenti? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it e prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai i tuoi nuovi agenti e batterai la concorrenza. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 26-28 novembre, Fiera Milano City. Amore. Sì? Senti. Cosa? È una serenata. Sì, tranquilla. È il tecnico My Glass, è di nuovo qui. Lascialo perdere che poi se ne va. Com'è romantico però. Sì, sì, sì. Noi di My Glass siamo fatti così. Il nostro amore per il vostro cristallo auto è incontenibile. Se ha subito danni, chiamaci 800 97 84 94. My Glass, il tuo vetro, la nostra passione. Sogni di viaggiare verso grandi città d'arte e magari un mare mozzafiato? Scopri tutte le facce dell'Italia. Se cerchi la bellezza, sei nel posto giusto. Ogni venerdì a soli 8,90€ con il Sole 24 Ore, le guide verdi del Touring Club. Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Torino e Trieste. La guida di Firenze in edicola dall'11 settembre con il Sole 24 Ore. Perché la sfida ambientale può essere un motore di innovazione sociale? Quali sono le opportunità offerte dalla bioeconomia? Quale può essere il ruolo strategico dei territori? L'11 settembre, alla Cascina Cuccagna di Milano, Novamont presenta Il potere del limite, una risposta concreta e sostenibile alle esigenze di competitività e sviluppo. Blue Economy, collaborazione, legalità, rigenerazione territoriale. Perché la soluzione non è produrre meno, ma produrre meglio. Il potere del limite, 11 settembre, Cascina Cuccagna. Per informazioni www.novamont.com. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Purtroppo nelle prossime ore ci attendiamo condizioni di marcato maltempo in diverse zone del sud Italia. Le regioni maggiormente interessate potrebbero essere la Sicilia e la Calabria, dove non solo le precipitazioni saranno più diffuse e insistenti, ma assumeranno anche carattere temporalesco, quindi localmente potrebbero essere veramente di forte intensità. Comunque piogge interesseranno anche la Sardegna, la Campania, la Basilicata e tra pomeriggio e sera anche la penisola salentina, insomma gran parte del sud, accompagnate anche da un netto calo delle temperature e da un rinforzo dei venti. Situazione che migliorerà tra l'altro solo nella seconda parte di domani. Situazione migliore invece al centro-nord, a parte qualche nuvola di passaggio nelle regioni centrali e sulla fascia prealpina. Con questo è tutto, ma per rimanere aggiornati vista anche la situazione vi consiglio di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Qui in Volkswagen vi siete inventati la Polo Cross, bellissima, più alta, maggiore visibilità, perfetto. Ma in più, protezioni sottoscocca, protezioni laterali, protezioni posteriori, troppe protezioni, eliminiamole. Chi compra Polo Cross vuole l'avventura. Scopri nuova Polo Cross, tua anche con finanziamento TanZero TAEG 2.18, offerta valida fino al 30 settembre, info su volkswagen.it. Signore, mio marito vuole il grass, io il parquet, come si fa? Grass effetto parquet, a 10 euro al metro quadro. Oh, niente divorzio quindi, Remo sei salvo. Negozi Iperceramica, prezzi super, qualità iper, scopri le offerte su iperceramica.it. Gambero Rosso si quota in borsa. Info su www.gamberorosso.it. Servizio assistenza software gestionale. Riagganciare. Azienda te via data software. Non viceversa. Ora puoi cambiare. Da 35 anni Team System sviluppa innovativi software per aziende e professionisti che sanno adeguarsi a un mercato che cambia. Teamsystem.com. Hai mai comprato prodotti biologici? Scopri Vivi Verde Coop, alimenti biologici buoni, sani e genuini che rispettano te e l'ambiente e prodotti ecologici realizzati con criteri sostenibili per garantire il minimo impatto ambientale. La Coop sei tu. Plenair.it. Stop. Plenair.it. Stop. Plenair.it. Su Plenair.it ti connetti alla natura ogni volta che vuoi. Plenair.it è il portale con nuovi servizi dedicati alle vacanze in libertà per organizzarti viaggi e weekend in modo indipendente. In più ti dà vantaggi e sconti e opportunità assicurative grazie ad Allianz. Plenair, lontano dai soliti viaggi. Passa a trovarci al Salone del Camper presso la Fiera di Parma dal 12 al 20 settembre. Melog. Cronache meridiane. riforma di Bergoglio va avanti e questa volta ha toccato la sacra rota con processi che saranno più brevi, gratuiti e decentralizzati, con il vescovo della propria diocesi come unico giudice che potrà decidere sulla nullità o meno delle nozze religiose. Le novità principali sono due. Per il processo ordinario non ci sarà più bisogno della doppia sentenza. Se c'è un accordo tra i due ex, non sarà più necessario attendere il giudizio di un secondo tribunale. Se non c'è invece un accordo, si potrà fare appello e rivolgersi alla Sacra Rota. Per quanto riguarda il ruolo del vescovo locale, questo Papa segnerà proprio la fine della Chiesa Cattolica Romana e l'avvento dell'Islam, dice Roberto da Bergamo. Quindi dovremmo forse istituire l'istituto della lapidazione delle adultere, del taglio della mano per gli onanisti, della impalatura per i sodomiti. Non so cosa dovrebbe fare questo Papa per frenare l'avanzata dell'Islam. Stiamo parlando del divorzio breve, della sorprendente iniziativa di Papa Francesco, che ha accelerato i tempi anche dei matrimoni rotali, e questo sta creando naturalmente dibattito. Ne stiamo parlando con l'avvocato Gianettore Gassani, che è presidente dell'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Ho qualche telefonata prima di tornare con Gassani. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Francesco Paolo da Caserta. Allora, io credo, perché per questi pochi minuti, signor Nicoletti, vorrei dire solo una cosa. Io, ma a prescindere, è tanto di rispettabile, rispettoso ciò che ha fatto il Papa, perché c'è proprio a scopo di lucro, tanti sacerdoti eccetera hanno abusato di questo ma non è questo il problema, poi va anche ridimensionato. Sì, però voglio dire che dava modo al trionfo dell'ipocrisia. Uno dice, per rifare una facciata pulita, di dire io non mi sono mai sposato, uno rinnegava il fatto che addirittura avesse avuto qualcosa a che fare con una persona, con escamotage ridicoli. Poi ci vuole tanto tempo, oggi probabilmente rimarranno le ragioni le stesse, ma bene o male si fa prima, se ne parla prima. Ben venga questo, perché e poi ogni coppia è a sé. Io dico soltanto una cosa: i sacerdoti, visto che hanno amministrato il sacramento del matrimonio, nel momento in cui li vuoi, li cerchi per cercare di salvare e capire il matrimonio, non li trovi. Non faccio tutta un'erba un fascio, attenzione, perché sono un cattolico anche praticante, non al 100% quando posso con la famiglia. Dice, non l'aiutano a gestire le difficoltà del matrimonio. I sacerdoti mancano, non sono preparati. Diciamo che è un tema che loro conoscono soltanto per averlo letto sui libri e per aver ascoltato le confessioni. Bisogna essere sposati per capire che è il matrimonio, secondo me. Giusto. No, ma a parte quello, cioè, i sacerdoti anche a livello teorico ci dovrebbero aiutare, e i parenti sono la causa di molti divorzi. Non tutti erano fascio, però questi sono problemi personali, entra in una sfera che si fa condizionare dai parenti, è giusto che poi abbia la sua vita condizionata dal parere dei parenti. Stefano, buongiorno. Buongiorno, io sono Stefano Pulitti, chiamo da Roma. Diciamo che questo argomento che avete trattato oggi in trasmissione, più che altro come tema quotidiano, diciamo, con mia moglie ne parliamo, così, perché facciamo parte di una comunità a Roma dove molti fratelli che fanno parte della comunità vengono fuori da situazioni di questo genere. Allora, voi siete neocatecumenali, cosa siete? Sì, esatto, neocatecumenali. Per voi il matrimonio adesso è super indissolubile, immagino. Sì, ma al di là di questo, perché questi sono argomenti complessi, qual è il punto? Dicevo, il punto era questo. Io dicevo, per rendere credibile anche agli occhi di chi da fuori guarda una nullità, manca la prova che questo sia un fatto reale, cioè, ossia, d'accordo, la Chiesa mi riconosce la nullità del matrimonio, però deve anche pormi una condizione, perché è vero che bisogna correggere, ma per correggere bisogna anche predisporre qualcosa. Quindi, in sintesi, voi neocatecumenali non siete molto d'accordo su questa velocizzazione? No, questo non c'entra niente, no, volevo dire... Ma come la pensate riguardo? La velocità... Quello che dice il Papa va benissimo, non è che non siamo. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il Papa. Io aggiungerei, questo è il mio punto di vista, metterei una condizione. Qual è quella la condizione? Se per modo di dire, una persona che ha richiesto la nullità già vive con un'altra persona e ha fatto dei figli, e il matrimonio precedente, quello che è stato annullato, aveva già dei figli, quelle persone che sono nate, quei bambini che Dio ha voluto che nascessero, di chi sono figli? Uno. E poi quelli che sono nati dopo hanno dei fratelli, questi fratelli esistono? Ho capito, lei pone un problema un pochino più ampio. Finiamo con Sandro. Sandro, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Pistoia. Io ho un amico che è un sacerdote che si occupa della Sacra Rota in diocesi e mi diceva che nelle chiese ortodosse, orientali e anche cattoliche esiste l'indissolubilità del matrimonio, ma il matrimonio è indissolubile, l'uomo è peccatore, quindi cosa succede? Si riconosce il fallimento del matrimonio, non la sua nullità, ed esiste un percorso di riammissione alla Chiesa, è un nuovo matrimonio che non è proprio come il primo, ora i tecnicismi io non li conosco, che non è proprio come il primo, ma che permette al coniuge separato di risposarsi, riconoscere il fallimento, cioè non è che il matrimonio deve essere nullo, ma l'uomo è un esercizio, lei capisce, non voglio entrare in me di pura retorica, giriamola come la vogliamo, comunque diciamo la disposizione del Papa vale anche per i cattolici greci di rito bizantino, quindi un po' per tutti vale la cosa, sì, poi uno può girarsela come vuoi. Gian Ettore, su queste telefonate. Io sono cattolico e francamente sono un po' preoccupato per le critiche che da parte di una minima parte del mondo cattolico vengono dirette al Papa, francamente, perché anche quando il Papa ha dichiarato un'apertura nei confronti dei divorziati ho letto di tutto di più, quando il Papa ha detto chi sono io per giudicare gli omosessuali ho letto di tutto di più. Io ho l'impressione che c'è una sorta di integralismo cattolico spaventoso nel nostro paese, una piccola parte ma spaventoso, perché quando un Papa come Papa Francesco finalmente ha il coraggio di rompere delle incrostazioni culturali stratificate nei secoli e finalmente dà una modernità alla Chiesa cattolica, ma probabilmente alla nostra società, noi dobbiamo salutare con grande soddisfazione queste rivoluzioni. Tra l'altro, nel caso specifico, le ragioni per le quali vengono dichiarati nulli i matrimoni sono identiche, non cambia nulla, cambiano i tempi e i costi. Vogliamo essere contenti, sì o no? Ecco, questo è importante dirlo, però sembra che è stato fatto una sorta di gesto scismatico. Lo dice Farina questa mattina, si slaccia come i lacci di una scarpa al matrimonio, ma sono naturalmente gli integralismi rifacciati. Io penso che la fede, ripeto, è un fatto individuale di coscienza. Chi ha fede dirà, vedi, il Papa viene incontro alla mia natura umana e quindi possibile anche a ripensamenti e strade diverse. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Devi fare aggiungere un capitolo al tuo libro, Amore, sesso e tempi di Papa Francesco, edizioni PM, perché adesso Papa Francesco si è mosso proprio nel campo specifico del tema che tu hai trattato. Sto scherzando, naturalmente, il tuo è un libro che sicuramente avrà diritto una sua riedizione, ma come la pensi? Ricordo Ignazio Ingrao, giornalista vaticanista di Panorama. Stai già notando questa mattina dei sommovimenti, dei sensi? Che sta succedendo? Chiaramente è caduta un po' come una bomba, sia alla vigilia di questo viaggio negli Stati Uniti, che vede anche una parte dell'episcopato americano molto abbastanza conservatore, quindi sulla linea poi della difesa, diciamo, del matrimonio e poi della vita e via dicendo, invece poi la parte più progressista, più riformatrice, che saluta con piacere questa novità. Il Papa mette al quindi centro, è strategica anche l'uscita di questa notizia, di questa cosa, è totalmente strategica, perché se sta partendo per gli Stati Uniti, pensa cosa accadrà quando arriverà il Papa, che in fondo ha dato un segnale così evidente. Certo, lui mette al centro il tema della fede, quindi se il sacramento è fatto senza fede, quel sacramento va considerato nullo. Però io vorrei porre l'attenzione su un problema, il rischio che questa decisione possa rappresentare una scorciatoia rispetto al sinodo, cioè il Papa giustamente si trova nella condizione di voler sanare e risolvere la situazione di cui tanti divorziati, che ed è stato detto esplicitamente ieri nella presentazione di queste norme, che magari si sono sposati in chiesa senza troppa convinzione e oggi vorrebbero poter annullare quelle nozze magari per risposarsi in chiesa. Questo è anche un po' al centro delle preoccupazioni del Papa. Però attenzione, il prossimo sinodo, che si apre a ottobre, ha a tema un altro argomento, che è il discorso di coloro che invece si sono sposati con convinzione in chiesa, magari hanno avuto anche dei figli, poi si accorgono che il loro amore finisce, divorziano e non vorrebbero rimanere, diciamo, alle soglie ottenute. tenuti fuori della Chiesa, cioè non vorrei che questa semplificazione dei processi rappresenti una scorciatoia rispetto al tema vero di cui si è discusso. Sì, che è anche finora un tema molto più doloroso e delicato, lo diciamo prima con l'avvocato Gassani. È un po' difficile dire a una persona: non è mai esistito il tuo matrimonio quando c'hai avuto dei figli, una fetta della tua vita l'hai divisa con questa persona. Cioè, noi abbiamo delle persone le quali non vogliono sottoporsi, diciamo, ad un giudizio di nullità dichiarando che non erano convinte oppure avevano delle riserve vogliono, mentali. Vogliono essere cristiani, avere i sacramenti pur avendo fatto uno sbaglio. Ecco. Esatto, questo è il tema. Diversamente questa decisione del Papa rappresenta una scorciatoia. Il secondo tema di preoccupazione che volevo sottoporre è quello del fatto che alcuni tribunali ecclesiastici anche qui a Roma sono ingolfati dalle richieste di nullità di tutti quei mariti che non vogliono più pagare gli alimenti alle ex mogli, e quindi con la nullità e la delibazione della sentenza trovano in qualche modo appunto la strada per fare questo. Fortunatamente la Cassazione, quindi il giudice civile in Italia, ha posto uno stop a questa pratica, perché ha detto che laddove c'è una convivenza, un matrimonio che è andato più lungo di 3 anni, ecco, non ci può essere una delibazione. Ma fermo un attimo Ignazio, stai toccando un tema molto importante, l'abbiamo già lambito prima con l'avvocato Gassani. Devo dare la linea solo un istante, poi riprendiamo proprio con te, perché questo è il tema fondamentale. In realtà è uno stop alle paraculate che usano, diciamo, il tribunale ecclesiale come una maniera, un escamotage per non ottemperare i loro diritti nei confronti di un coniuge con il quale non hanno più rapporti. Fermi un secondo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Stefano, buongiorno, velocemente. Io volevo dire che a me sembra più appropriata la reazione degli integralisti, diciamo, tipo l'SMS che è venuto da Bergamo, perché insomma mi sembra che ci sia, anche se naturalmente io vedo con favore questa riforma del Papa personalmente. Il fatto che mi sembra che non si consideri un elemento, cioè il fatto che ci sia questa agevolazione perché quando c'è l'accordo tra i due coniugi. Questa cosa, diciamo, di accordo fra i due coniugi ha molto del contratto, poco della fede, che appunto, come diceva lei, è un elemento individuale di convincimento profondo e che non può essere, diciamo, trovata a coppia e finire a quindi coppia. Non è una volta due persone sposate possono cambiare idea quanto vogliono, fare quel che vogliono, rimane l'idea, il principio che nulla potrà annullare quello che è stato scritto in lettere di fuoco nei luoghi celesti, qualcosa del genere. Soprattutto questo fatto che, diciamo, la riforma del Papa mi sembra che preveda che nel caso che ci sia un accordo tra i due a rompere questo matrimonio, è una cosa che insomma fa venire immediatamente in mente al contratto. Perché non è un contratto il matrimonio, cos'altro è? È un contratto, ma per me, diciamo, che non ho la fede, però per quelli che dicevano i cattolici che abbiamo sentito. Ma no, perché scusi, adesso voglio dirle, lo dico in maniera bonaria, ma perché si preoccupa, se lei non ha fede, di quelli che hanno fede? Saranno problemi loro. No, non mi preoccupo assolutamente, dico soltanto che mi sembra che nella reazione dei cattolici illuminati, che per i quali, diciamo, ho anche insomma tutta la mia simpatia, anche un accordo, diciamo, ideale, anche se non ho la fede, però mi sembra che sia una reazione non vera, perché non è vero che non è cambiato nulla, cioè il Papa a me mi sembra che giustamente tenga presente anche del fatto che ci sia o meno un accordo, quindi avvicini questo istituto anche a un istituto terreno tra due persone che a un certo momento decidano insieme. Credo che sia difficile decidere insieme quando avere fede e quando non avere fede, la fede è un fatto individuale, quindi per quale motivo uno che mantiene la fede si dovrebbe vedere sciolto? Lei ha un concetto suo della fede, non esiste perlomeno almeno in una visione talebana dello spirituale, qualcosa di sovrasensibile che deve forzare le coscienze di una persona oltre quello che è il suo limite di accettazione. Ignazio Ingrao, vediamo se riesci tu a dare una risposta che ha più elementi, diciamo, questo ascoltatore. L'ascoltatore giustamente mette in evidenza come il processo breve che è previsto da questa riforma avviene attraverso il consenso dei coniugi e di poi di quell'altra figura che è il difensore del vincolo. Consenso dei coniugi rispetto al fatto che appunto siano d'accordo nel dire che sono mancati alcuni elementi fondamentali perché ci sia stato diciamo il sacramento, e quindi tra questi sia mancata la fede oppure la convinzione, diciamo l'apertura alla vita o via dicendo, oppure ci sia stato un adulterio diciamo che è andato avanti nel tempo. Quindi consenso non nello sciogliere questo contratto come è stato detto, ma piuttosto nell'essere concordi nel dire che mancavano alcuni dei caratteri essenziali. Non dovremmo mai parlare di annullamento di questo del matrimonio, per il diritto canonico è dichiarazione di nullità, quindi il vincolo non c'è mai stato perché mancavano appunto alcuni degli elementi fondamentali. È chiaro che in qualche modo si dà anche un po' l'impressione all'esterno, questa è un po' la posizione di quelli che sono più vicini alla tradizione, che si ammorbidisca diciamo la sanzione, la difesa, la sanzione intesa appunto come la difesa del matrimonio, dell'indissolubilità del matrimonio, certo, perché laddove c'è un accordo in 45 giorni si può arrivare alla dichiarazione di nullità. Allora il centro qual è di tutto il discorso, anche per l'accenno che facevamo prima, chi volesse approfittare di tutto questo, che ci deve essere una capacità di ascolto da parte dei vescovi e dei loro delegati a chi poi si rivolgerà a loro chiedendo la dichiarazione di nullità. È qui il punto. Allora la riforma è importante, ma poi si gioca nella capacità che si avrà sul territorio da parte dei vescovi e dei loro delegati di ascoltare e quindi di capire la genuinità poi delle intenzioni. Quindi mi sembra di capire, Ignazio, il Papa riporta la centralità della coscienza individuale, che non ci si può sempre appoggiare a qualcosa che ci assolva dall'onere di fare i conti con la nostra coscienza. Poi chi vuole prendere in giro se stesso, come abbiamo già detto più volte in questa trasmissione, naturalmente aveva prima come adesso tutti gli escamotage possibili. Allora Gianettore Gassani, vediamo di portare tutto sul piano concreto, sul piano reale, sul piano proprio del diritto, quello che è accaduto e sta accadendo. Riassumi, in realtà non è cambiato nulla di fondamentale in questione di principi. Le ragioni di fondo, i principi che determinano la dichiarazione di nullità non sono cambiati. Vabbè. Cambiano i tempi, vorrei sfatare il mito che gli avvocati rotali lucrassero, guadagnassero, perché poi è capitato, ma voglio dire, nella maggior parte dei casi le parcelle sono piuttosto basse. Si sono ridotti i tempi più che i costi, il gratuito patrocinio è sempre esistito. Ma credo che quello che va sottolineato con favore è il principio che il Papa vuole in qualche modo sfornare, l'autocoscienza, la riduzione della sofferenza. Perché creare una via crucis? Perché ter gradi di giudizio per una situazione che comunque non è mai esistita? Ovviamente io non sono un avvocato rotale, sono un avvocato matrimonialista. Devo dirvi che a noi avvocati, diciamo così, civili, laici dello Stato italiano, perché non dimenticate che le sentenze canoniche sono considerate straniere, interessa molto poco dal punto di vista della concretezza, anche ai giudici interessa molto poco. È una questione di fede, perché io voglio proprio vedere quante sentenze verranno derubate dalle corti di appello, perché poi credo che tutto sommato anche le cause di fede hanno sempre i soldi dietro l'angolo da risolvere. E infatti è vero quello che diceva il dottor Ignazio, che praticamente spesso si arriva alla deriva della sentenza canonica per non pagare i mantenimenti, gli assegni di mantenimento. Ma non è proprio così, non è più così. Quindi la gente perdesse la speranza che attraverso la fede poi ritorna nelle corti d'appello e non paga più l'assegno alle mogli o ai mariti qualche volta, perché non è più così, non funzionerà così. Beh, mi sembra molto chiaro e molto illuminante quello che abbiamo capito questa mattina. Il Papa ha ritracciato un solco, come è giusto che sia, fra quello che sia i limiti del potere temporale che definisce tutti gli effetti civili del matrimonio, quello sia l'autorità spirituale che dice alla base di tutto c'è la tua coscienza, tu lo sai poi quanto ti prendi in giro, tu sai esattamente qual era allora il tuo consenso, sai allora esattamente qual è in questo momento la tua situazione per 55 sono finiti, non possiamo andare. Maurizio, buongiorno. Sentiamo. Buongiorno. Sì. io ho chiesto la nullità del matrimonio, non mi è stata concessa perché mia moglie ha detto che voleva un figlio nel 2000, cosa che io mi sono separato nel 98. E quindi? Mi sono risposato solo in comune. Stop. Il prete me l'ha concesso, vado a fare la comunione e tutto, vado in chiesa tranquillamente. Quindi per lei non cambia niente alla fine? No, non cambia nulla. Va bene, la sento piuttosto mesto, però evidentemente il peso di due famiglie in realtà la segna in maniera indelebile. Grazie Gianetto Regassani, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Avete interrotto il pistolotto, così, per questo signore che non dice a nulla.